credimi, nipotina, io son fuori di me. Se il conte il reo, che cosa vuol da fare? Ma voi non manca maniera di saperlo. Se volete, sol dipende da voi. Questo va bene, ma se la miro intanto, ecco che viene. Signore, eccomi pronto. Ora, che fai? E forse non ravvisi il torbido sembiante di un giudice severo a Teravante. Sposa, sposa! Che tace! Mio signore! Silenzio! Si aspetta! Non parlare! Al giudice rispondi! Chi sei? Come ti chiami? Il contino Belfiore. Quello il quale ce lo sposo. Basta! Dimmi, tu conoscesti la marchesina Onesti? Che dirò? Di che non sai? Non la conosco, ibo. Ella vive? No, signore. Che dite? Dunque, è morta? Non so. Cioè... Ma senta, niena, se vuoi salvarmi. È ver quel che si dice, ella sia stata uccisa. Purtroppo è ver, ma sappia... Signor sì. No, signore. Non vi imbrogliate! È pubblica la voce che tu quella uccidesti. Oibò. L'amore. Cioè la gelosia. Fu casualità. Non più. Che sciocco. Dal conte cosa mai se pretende? Di qual delitto è reo? D'aver uccisa la marchesina Onesti. È una calogna! Ferita fu violante, ma non morì. Ciascuno venga violante in me. Sì, quella io sono. Lode al cielo, sono è viva. Egli perdono. Ah, lo dissi, mia cara! Tu, Violante? Tu, Marchesa? Tu, dama? Sì, son io, ne mentisco! Questa parla davvero! Oh, che allegrezza! Ah, me lo dice il cuore che risalta gioioso. Adorato mio bene, più non capo in me. Lascia, te lascia, che al fin su quella mano io possa. Indietro! Mi segnate! Quella mi finse solo per salvarmi e mi prevarsi a tempo della gran somiglianza che dicesse aver io con la morta Violante. Una callea, una fredda. Addio cervello. Andate pure, andate dalla vettura.